Buongiorno Chiesa, che bello avervi e vedervi e essere famiglia, è vero? Gioite l'uno dell'altro, gioiamo l'uno dell'altro o no? Lo dobbiamo fare molto perché questa è una rarità, logicamente siamo tutti belli, però io poi non me ne vado col groppone a casa, devo dire una cosa, però la seconda fila è stupenda, adolescenti e giovane. Nino, gridalo. Amen. Amen. Ma così è. Che bello vedere questo e predicare a volti così splendenti e dedicati al Signore. Mo non passate tutta la seconda fila. Allora, abbiamo anche sentito, siamo alla fine dell'anno. Avete visto chi hanno messo a predicare? Insomma, il vecchio se ne va, insomma. Ma è vero che alla fine dell'anno sempre un poco tiriamo le somme, anche se non le vogliamo tirare le somme. Tu incontri che ti danno gli auguri, che ti dicono, e poi ti chiedono, beh, com'è andato l'anno passato? E tu sei lì a cercare un anno intero quello che hai vissuto. E la risposta è sempre la stessa. Come rispondiamo? A one done. Cioè, come per dire, come l'abbiamo vissuto, un colpo alla botta e un colpo al cerchio e la cosa sta insieme. Ed è vero, però, la parola di Dio dice, noi tutto diverso, per noi c'è l'Evangelo, è una notizia meravigliosa, è una notizia stupenda, è una notizia bellissima. Per noi la notizia è che anche le cose negative diventano positive nel Signore. Per chi confida in Dio, non esiste sconfitta, è incredibile. Anche le sconfitte si tramutano in vittorie. Basta solo saper aspettare. Aspettare. La pazienza in Galati 5:22 fa parte dei frutti dello Spirito Santo. La pazienza fa parte dei frutti, è un frutto che noi gustiamo quando viviamo la pazienza e ne sentiamo tutto il sapore quando viviamo la pazienza. L'insofferenza, la fretta e ogni altra cosa di voler vedere subito e tutto, questo ci fa vivere la corsa interiore e non arrivi mai. Anche le sconfitte diventano vittorie, dice la parola di Dio, per quelli che lo temono, per quelli che lo amano, perché ogni cosa, dice Paolo, anzi lo andiamo a leggere, è un passo così incredibile, perché tante volte noi ci sentiamo anche dire sì, belle parole, sì, sappiamo dire belle cose, però poi la pratica dov'è? Fratelli e sorelle, i fatti, la realtà, la pratica è nell'attuare la parola di Dio. Non sempre solo aspettare il miracolo che deve accadere e deve cambiare tutto in un batter d'occhio. Il prossimo anno, il nuovo anno, non cambia tutto in un batter d'occhio solo perché si chiama 2020. E non annulli il 2019 in un batter d'occhio, vivi ancora le cose che hai sperimentato, vissuto in negativo e in positivo. Per questo noi dobbiamo attuare la parola di Dio in ogni aspetto della nostra vita e lì vediamo la vittoria. La vedi sempre, sempre. Io lo so che le facce sono perplesse, io lo so che avete un punto interrogativo proprio stampato sulla faccia, però è la realtà della parola di Dio e questo si realizza e si verifica realmente. Voglio leggere questo passo, anzi, per renderlo, non lo faccio mai, ma per renderlo veramente trionfale e incredibilmente fuori dal comune, lo leggiamo in piedi, va bene? Leggiamo dalla lettera ai Romani, il capitolo 8 è un passo consistente, però è incredibile. Ogni volta noi possiamo, quando lo volete, mentre sto leggendo o stiamo leggendo, grida. Abbiamo sentito questa mattina, siamo una chiesa che... Siamo una chiesa che grida, ma grida dando gloria al Signore, va bene? Vedete quello che è scritto. Ora sappiamo, lo sappiamo, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Amen, pur più forte, perché sei chiamato. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Questo è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Puoi avere mille situazioni e mille nemici, ma Dio è con te, Dio è con me. E nessuno può essere contro di noi. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Tutte le cose, tutto quello che stai vivendo. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma però, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Ehi, non va riletto, gloria a Dio, veramente. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Gloria a Dio, veramente. Infatti, sono persuaso, sono convinto, sono sicuro che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti e né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio. di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Alleluia, amen, questo è vero. Possiamo accomodarci, perdonatevi se vi ho fatto stare in pietra, ma questo passo lo meritava tutto di stare in piedi davanti alla magnificenza di quella che è la parola di Dio, ma di quello che il Signore pensa di noi. Sì, possiamo anche essere perplessi di tutte queste cose, dice è troppo, non è possibile, più che vincitori, cioè vincitori già, vincitori, cioè vincitore non è a Wandan, vincitore non è, beh, io me la so cavata, vincitori è meglio di come eri. Mo, spiegatemi più che vincitori che vuol dire. Cioè, non si può andare oltre. Come si fa ad andare oltre a vincitori? Eppure la parola di Dio dice che noi siamo più che vincitori. Io ho immaginato forse per me, per gli altri, per la generazione futura, per quelli che incontro, noi siamo più che vincitori, ed è per questo che noi non dobbiamo avere perplessità, ma capire, io lo so, c'è la perplessità, io già dentro, mi è venuto proprio, stavamo insieme questa mattina là in tre persone, allora uno la spalla, io, l'altro la schiena e l'altra l'anca. Allora, dici, non sai come ti devi acchiappare da come dentro, io ho visto, vivono tre attitudini, tre atteggiamenti, tre pensieri, tre situazioni che viviamo anche quando incontriamo gli altri. Facciamo l'esempio. Il primo è positivi. Com'è il positivo? Gli fa male la gamba, prendiamo un esempio, non ho voluto prendere quelli di prima, fa male la gamba. Qual è l'atteggiamento del positivo? Grazie Signore che ce l'ho. C'ho ancora la gamba, questo è il positivo e lo riesce pure a trasmettere. Questo noi dobbiamo fare, trasmettere il positivo. Però dentro di noi, contemporaneamente, mentre eravamo lì in tre, venivano avanti tutte e tre queste cose. L'altro è il solidale. Il solidale è, mi fa male la gamba. Sapessi a me il dito. Perché è positivo, vuole essere solidale con l'altra, a dire, come si dice, mal comune mezzo gaudio, no? Allora, siamo insieme, soffriamo insieme, gioiamo insieme, però è importante che nell'essere solidali trasmetti anche la speranza che noi abbiamo in Cristo Gesù. Può farci male tutto quello che ci fa male, ma noi abbiamo il Signore nella nostra vita e Lui è capace di portarci avanti con o senza dolori e farci vivere la vittoria sua. Poi c'è il negativo. Sempre la gamba. Mi fa male la gamba, non valgo più niente, sono finito. A che serve vivere? Se arriva a questo, poi non solo questo, no, poi incontri anche l'altro che quando sente che gli fa male la gamba, l'altro che cosa fa? Allora l'altro dice, ho sentito da un mio amico che aveva un parente, vuol dire non c'è più, aveva un parente che gli faceva male la gamba e poi è passata all'anca e poi alla spalla. Non c'è più. Quindi tu immagina quello che già si sente atterrato, come tutte queste cose vivono in noi contemporaneamente. Non è che noi viviamo una, l'altra o l'altra, no, tutte e tre, a secondo dello stato d'animo che noi abbiamo, sono dentro di noi. E ma è qui la vittoria dell'Evangelo, più che vincitori, la parola che ci dice, è andare oltre. Dice, come si fa? Sai, impara da chi hai a fianco, sai, molte volte quello che hai a fianco ha riportato tante di quelle vittorie che può essere il tuo esempio, non in tutta la sua vita, ma anche in un solo aspetto. E questo ti dà coraggio e ti dà speranza. Guardiamo l'uno all'altro, non siamo tutti da buttare via. Io lo so che quando mi guardo allo specchio non c'è nessuno meglio di me, ma sono pure solo io davanti allo specchio. Più che vincitore, guardiamo agli esempi della parola di Dio. Per esempio, ecco, quello che noi dobbiamo fare è non dobbiamo sottovalutare le piccole vittorie, perché sono proprio le piccole vittorie il preludio della vittoria totale. È vero, le piccole vittorie. Prendi esempio, per esempio Gedeone. Gedeone aveva una fifa da morire. Seminava il seme di nascosto per paura dei filistei e degli amorrei e di tutti quelli che c'erano, quei popoli che attaccavano Israele. Andava a seminare di nascosto il seme. Lo raccoglieva di nascosto e si andava a mettere di nascosto nelle grotte e nelle rocce per battere il grano. Aveva paura, però alla fine aveva il grano. Puoi dire, vabbè, però è stato proprio lui, non un valoroso, è un temerario a essere scelto da Dio per liberare il suo popolo, ma Gedeone, il pauroso, il fifone, che nonostante tutta la paura e nonostante tutta la fifa faceva, operava. E questo lo portava di vittoria in vittoria. Un altro esempio può essere Anania, la stessa cosa. Vi ricordate la storia di Anania e Paolo? Quando Anania era un credente comune della Chiesa, non era un leader, non era una guida, non stava a capo di niente, era uno che ascoltava la voce di Dio e ubbidiva e cercava di ubbidire alla voce di Dio. E il Signore gli disse, vai da Paolo. Ti cadono le braccia quando tu stai pregando con tutto il vigore, con tutta la forza. Signore, cambia il mio vicino, cambia la mia moglie, non dite che non lo fate, cambia sempre l'altro, cambia sempre l'altro. Poi il Signore ti dice, va, ma quello mena a destra e a sinistra, ha distrutto tante chiese, ha ammazzato tanti credenti, e tu mi mandi da lui. Che ha fatto Anania? È andato. Aveva paura? Sì, ma nonostante la paura ha ubbidito alla voce del Signore. È lì. E che vittoria ha avuto? Che cosa ne ha avuto Anania? Paolo, che veramente è andato in tutto il mondo conosciuto di allora e ha trionfato per la gloria di Dio fondando tante chiese. Non è questo una grande vittoria? Però per me, se io devo scegliere un eroe per la mia vita della parola di Dio, io trovo Pietro l'eroe. Pietro era stato pure avvisato. Dice, tutti potranno e ti tradiranno, ma io mai. E il Signore che cosa gli disse? Prima che il gallo canti, non una volta, tre volte. Dov'è la vittoria di Pietro? Dov'è la vittoria di Pietro? Che grosso problema, un traditore incredibile. Per la stessa cosa Giuda si è impiccato. Qual è la vittoria di Pietro? Uscì fuori e pianse amaramente. La vittoria di Pietro fu quel pianto davanti al Signore. E quello lo restaurò, lo pulì, lo perdonò. È incredibile. E Pietro ha fatto poi la parte di Pietro, diventando veramente la colonna della Chiesa primitiva e del messaggio del Signore Gesù. Vedete, noi abbiamo mille esempi di tutte le qualità, di tutte le specie che ci permettono di imitare, di copiare, di fare come l'altro, di provare a fare in quella maniera e vedere che il Signore ci offre poi la vittoria in tutte le cose. Possiamo dire quali sono le cose? E il verso qual è? Il verso 35 dice, nel verso 3, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Vedete, noi possiamo guardare al problema. Prima di continuare con questo, vorrei dire ancora una cosa importante. Noi possiamo guardare al problema come un gigante davanti a noi. Davide si è trovato il gigante, il popolo di Israele si è trovato il gigante. Il popolo di Israele a che cosa ha guardato? Ha guardato alla spada di quel gigante, ha guardato semmai alla corazza, ha guardato all'elmo, ha guardato a tutto quello che aveva quel gigante. E che ha fatto? Si è bloccato. Non andava né avanti e né indietro. Aveva tutte le possibilità di vittoria, ma un solo uomo, perché impressionante, ha bloccato un intero esercito. Ma Davide, che tra parentesi era solo e anche piccolino e non armato e senza niente, se lui guardava la spada, ha guardato la spada? No, perché lui il bastone aveva. Ha guardato la spada o al giavellotto della? No, perché lui la fionda aveva. Era un filo che lanciava una pietra, niente di più. Ha guardato all'elmo e dice, purché io voglio buttare la pietra. Va bene, purché io voglio buttarla. E dove gliela butto? Cioè la corazza davanti, lo scudo, l'elmo in testa, che cosa gli prendo? Il dito mignolo? La pietra è andata laddove il Signore ha voluto, ma chi è che l'ha lanciata? È stato Davide. Se guardi alla spada, ti fermi e ti blocchi. Che cosa ha fatto Davide? Davide ha iniziato con proprio l'inizio è stato immaginare. Immagina. Noi dobbiamo essere veramente dei sognatori in ogni cosa. Immagina, lui ha immaginato la vittoria. Infatti la sua prima uscita, qual è stata quella di Davide? Che uscita ha fatto Davide? Dice, ma se per caso uno, combatte e abbatte il gigante, che cosa ne ricava? Lui ha guardato già la vittoria, lui si vedeva già i soldi in tasca, lui si vedeva già il trionfo della vittoria, non l'aveva nemmeno vista da vicino il gigante, immaginate, e già immaginava la vittoria. E gli hanno detto, insomma, ricevi per moglie la figlia del re, ricevi terreni, ricevi tante di quelle cose. Lui, quando è andato davanti al gigante, non ha guardato al gigante, ha fatto un'altra cosa. Ha confessato non la spada, non ha detto, mamma mia che occhi grandi che hai, mamma mia che bocca grande che hai. ha detto semplicemente: tu vieni con tutte queste cose a me? Io vengo nel nome del Signore. La confessione di quello che noi abbiamo permette il trionfo in tutto quello che viviamo. Perciò di nuovo dico: non sottovalutare le piccole vittorie. Perché? Perché vedete, il popolo di Israele ha incominciato a lamentarsi e a dire: e chi lo farà per noi? E il lamento è il grido della sconfitta. Ogni volta che noi ci lamentiamo di qualsiasi cosa, stiamo chiamando e stiamo vivendo, già stiamo immaginando la sconfitta. Il lamento è la visione della sconfitta e la facciamo nostra. Ecco perché guarda le piccole vittorie. Devi guardare all'anno che è passato, guarda tutte le piccole vittorie che hai avuto nell'anno passato. E vedrai che grande trionfo è da parte di Dio nella tua vita. Puoi vedere alle perdite, a quello che non hai più. Certo, come ha fatto il popolo di Israele, e ti blocchi e rimani fermo lì. Questa non è la parola di Dio, questo non è il messaggio del Signore Gesù. Perciò, qual è la spada davanti a te? Oppure possiamo dire: cosa stai guardando? E cosa stai confessando? Ecco, qui proprio Paolo sta confessando questo nel verso, dice, ma in verso 30, 37, ma, e poi leggiamo il 35, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. In che cosa? Leggi il 35, dice: chi ci separerà dall'amore di Dio? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? No, tutte queste cose non ci vengono. Se noi le vediamo uno a uno, noi le viviamo queste. La persecuzione vuol dire ostilità ripetuta. Quando qualcosa si ripete nel tempo, sai, è come lo straccio per lavare per terra. Quando lo strizzi e lo strizzi e lo strizzi, diventa niente. Però se poi lo rilasci, è di nuovo intero e pronto per un'altra battaglia, perché quelle le fa veramente le battaglie. E questo è anche di noi. La persecuzione è proprio quando siamo strizzati. E Paolo confessa in un passo, messi a morto, moribondi, ma non completamente atterrati. Poi dice, dice anche perseguitati, ma non abbattuti. È incredibile. Ecco la confessione, quello che fa. E così possiamo continuare con tutti gli altri aspetti. Dice anche tribolazione, che più o meno è la stessa cosa. È una serie di difficoltà, una dietro all'altro. Della serie è tutta a me. Noi questa parola non la conosciamo, è vero? È tutta a me. E una cosa che è capitata è tutta a me, di negativo, e lì noi dobbiamo imparare a confessare la vittoria. Pietro e Giovanni, tanto per fare un esempio, dopo aver compiuto un miracolo di quel paralitico, che sarei iniziato io se avessi visto un miracolo del genere, a saltare e a fare le capriole. Dopo aver vissuto quel miracolo, che cosa è successo di Pietro e Giovanni? In prigione. Dice: come, Signore, io operai tutto questo, e mo a me non è il modo anche nostro di parlare e dire, è proprio a me, è proprio a me. Perché deve capitare all'altro? Non ho capito. Che stai pregando? Quanto è importante prendere in tutte queste cose l'atteggiamento positivo, più che vincitori. Può essere la spada, la spada è quel lama a doppio taglio, sai, molte volte è paragonata alla lingua, quanto male fa la lingua, quanto male fanno le parole, molte volte più delle battiture reali. Eppure l'Apostolo Paolo dice proprio mai scoraggiati in ogni cosa, confessanti quello che il Signore fa. Però per me forse le cose più brutte di quelle che abbiamo letto è quando leggiamo sarà forse l'angoscia, la paura. Per che cosa? Molte volte è la paura per la paura. Molte volte è solo la paura. Non abbiamo nulla da temere, ma molte volte la paura è il primo sentimento, è il primo atteggiamento che si affaccia dentro di noi. Questa è una battaglia di dentro e le battaglie di dentro molto spesso sono le più difficili da vincere, diciamolo, perché vivono dentro, non le vuoi esternare e girano e rigirano lì sempre allo stesso punto. Ecco perché il salmista Davide nel Salmo 56 dice proprio: e quando la paura verrà nel giorno della paura, dice letteralmente, nel giorno della paura, io confiderò in Dio. Vedi, nelle situazioni più tremende, confidando in Dio e confessando la parola di Dio più che vincitori, noi riceviamo la forza, attiviamo la potenza dello Spirito Santo dentro di noi ad agire al nostro posto. Però il passo, come Anania, sono io che lo devo fare. La pietra, come Davide, sono io che la devo lanciare. La guiderà il Signore dove deve andare, ma io lancerò quella. E così ci sono gli altri, ho visto che Giuseppe grazie per la puntualità, è dovere, no? Bello, ma è un dovere gioioso, è vero? Sì, è bello vedere. Parla della fame è quel vuoto quando non siamo capiti da nessuno, la nudità quando ci manca veramente qualcosa, e così via dicendo. Ma ognuno di noi, anzi tutti quanti noi, dal più piccolo al più grande, nelle situazioni differenti e nelle età anche differenti, noi sperimentiamo difficoltà gigante, spada, tribolazione, nella misura che ognuno di noi lo vive, se guardiamo gli esempi della parola di Dio. Che pensate di Mosè quando si è trovata davanti al Mar Rosso? Come dire al Signore: mi hai fatto uscire da lì, e mo? Con un bastone. O Daniele nella fossa dei leoni, cioè incontra un leone, ancora, ma quella era piena di leoni, dice, prima o poi. E vedi, ci sono tanti esempi, e così chi era? Ecco, questo forse è il più forte. Giona, la delusione. Quando siamo delusi ci sentiamo completamente atterrati. E lì è la confessione e il confidare nel Signore. Possiamo parlare di Pietro, la vergogna, di Tommaso, l'incredulità. Io voglio terminare leggendo il verso 38 e spero che questo passo lo andiamo a leggere e a rileggere e facciamo del 38 il nostro motto. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen? Amen. Gloria a Dio. Alziamoci in piedi. Signore, io sono persuaso che Tu hai nella mano Tua ognuno di noi, con tutte le problematiche che abbiamo, tutte le situazioni che viviamo. Signore, fa di questo un grido di vittoria per ognuno di noi, affinché quando andiamo a vivere anche il nuovo anno, noi possiamo viverlo nel trionfo e nella vittoria Tua per ogni cosa. Grazie, grazie infinitamente per tutto quello che abbiamo vissuto nell'anno passato, anche delle cose negative, Signore, perché lì possiamo crescere e afferrare la volontà Tua. Signore, ti benediciamo e ti ringraziamo per ognuno di noi in Cristo Gesù. Amen.